Insomma, per un filosofo un poco di logica sarebbe necessaria, che le prime parole introducano nel cuore del discorso. E per farlo mi occorrono però delle premesse. Anzitutto delle premesse per quanto riguarda il tema che mi è stato sollecitato. Io non parlerò né di teologia né di politica. Naturalmente parlerò sempre avendo in mente e la teologia e la politica, ma in un certo senso collocandomi su un altro livello che per certi aspetti può essere considerato intermedio e per altri può essere considerato trasversale. Io lo preferirei considerarlo così, vedrei attraversare la tematica che ci sta sollecitando. Il tema etico. E il tema etico, dove io ho cercato di precisarlo con il sostantivo che gli ho accostato, l'ordine etico, cioè il tentativo di costituire l'etica come un principio di unità e di ordinamento. Allora, l'etica nella sua struttura di ordinamento di fronte ad un'altra struttura di ordinamento che è quella storico-politica. Come collocare queste due strutture? E il titolo della relazione già lo dice, è la tesi che io tenderei a sostenere, vi è un aspetto per cui l'ordine etico pone l'ordine politico, ma vi è un aspetto anche per cui l'ordine etico è crisi dell'ordine politico. Se avrete la pazienza di ascoltarmi, cercherò di delineare rapidamente questi due aspetti e di avviarmi nell'ultima parte conclusiva a un tentativo di presa di posizione rispetto a questa doppio, non chiamerei doppio doppia possibilità, ma questo doppio fatto è un fatto storico che l'etica si sia posta e come posizione e come crisi dell'ordine del politico. Dicendo però che io non parlo propriamente o in modo centrato di politica e di teologia, devo anche aggiungere un altro aspetto che mi pare connotare o intenzionalmente connota quello che io verrò dicendo. Vi è da parte mia una certa diffidenza nei confronti tanto della politica quanto della teologia, quanto ancor più della coniugazione di teologia e politica. Questa diffidenza nasce da una, chiamiamola così, sensazione, se in un discorso culturale è legittimo far valere questi termini, dalla sensazione che occorra, rispetto a teorizzazioni del passato o del passato molto recente, fare un passo indietro, fermarsi un attimo e non pensare immediatamente e direttamente alla teologia, alla politica e alle loro, e tantomeno alle loro reciproche mutuazioni, quanto domandarsi che cosa resta della teologia e che cosa resta della politica. Ora io questo tema non lo affronterò in modo così diretto, perché lo affronterò per quel taglio trasversale, come dicevo, che è il taglio politico. Fatte queste premesse, allora mi avvio più direttamente al tema che mi sono proposto. Dicevo, vi sono due movimenti nell'etica. Un movimento per cui l'etica pone l'ordine storico e l'ordine politico, un movimento per cui mette in crisi questo ordine. Il movimento della posizione. Passerò molto rapidamente perché abbiamo avuto qui un dossier che io ho letto, che è molto bello, che dà tutti gli elementi da solo per desumere questi temi, ma in termini illustrativi dovrò citare qualche nome. L'ordine della posizione, l'etica come posizione. Certo che tutti noi abbiamo in mente, pensiamo sicuramente a Hegel, pensiamo alla distinzione che Hegel introduce tra moralità ed eticità, proprio in funzione di una enfasi dell'etica come capacità di essere ordinamento storico, politico, persino di uno Stato. In Hegel è chiaro che tutto questo, la distinzione per sé altrimenti artificiosa tra moralità ed eticità, è in funzione del massimo dell'enfasi dell'etica e del massimo della concretezza, tanto concreta da identificarsi pienamente con le strutture e gli ordinamenti statuali, lo Stato etico incarnato. Dietro all'ipotesi hegeliana vi è la fortissima esigenza di concepire il luogo mondano e politico e storico come un luogo pieno di valore. Ecco, la eticità come posizione del politico. E se vogliamo cercare un luogo in cui questa affermazione diventa persino ingenua, se volete, pensate a Feuerbach in uno scritto non notissimo, Necessità di un cambiamento, in cui lui, dopo aver fatto la critica della teologia e la critica della religione cristiana, dice esplicitamente e testualmente: la politica è la nostra nuova religione. La politica è la nuova religione, ma nell'essere la nuova religione è ricca tanto dei contenuti della religione tradizionale, quanto dei contenuti della teologia tradizionale, quanto dei contenuti dell'etica, perché le cose in Feuerbach non si distinguono. La politica in Feuerbach non solo si sostituisce alla religione, ma la assorbe. È una piena assunzione. Nella politica vi è la piena assunzione dell'etico e del religioso. E in questo senso, ma non mi dilungo, vi sono aspetti del pensiero di Schmitt che certamente vanno in questa direzione. Quando, per fare una citazione che riprendo dal dossier, tutti i concetti più pregnanti della moderna teoria dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. In tutte queste posizioni, che valgono come esempi, non intendo tracciare una linea, sono solo richiami, vediamo questo movimento che dall'etico si sposta verso il politico e fa del politico il luogo di concretizzazione, di assorbimento, di manifestazione, di pienezza dell'etico. In ambito teologico, e qui ci sono tanti maestri che mi potrebbero correggere, ma io ciononostante oso, in ambito teologico mi sembra che questa assunzione nel politico di una ricchezza che ha un'altra origine, vuoi teologica e vuoi etica, sia relativamente recente. Direi, citerei qui due nomi, Pannenberg e Metz. Penso a Pannenberg nel suo concepire la rivelazione come storia, cioè nell'assumere la categoria della storia come l'unico luogo propriamente adeguato ad una rivelazione che è hegelianamente una autorivelazione. Penso a Metz, che costituisce una svolta rispetto a Rahner, a parer mio, perché fa intervenire nella teologia non soltanto il rimando antropologico, ma ancor più e soprattutto la categoria della totalità, sicché fa passare la svolta antropologica rahneriana, facendola diventare svolta di una teologia politica, di una teologia del mondo. E in questo senso leggerei almeno alcuni aspetti anche di quelle teologie di qualche cosa, teologia della liberazione, queste teologie post teologia politica, potremmo dire, che devono essere considerate non tanto come le vecchie teologie della storia, non tanto come delle teologie che si applicano ad un problema, ma al contrario come teologie che dilatano il concetto di totalità, nel senso che assumono all'interno della tematica teologica nuove province che erano sconosciute: la donna, teologia e femminismo, la liberazione, eccetera. O se volete la politica, in ogni caso sempre la assunzione di un orizzonte che è un orizzonte complessivo all'interno della tematica teologica. Riflettiamo un attimo su queste posizioni che in termini esemplificativi qui ho richiamato. In tutte queste posizioni, senza eccezione, secondo me, un ruolo fondamentale è svolto dalla categoria della totalità. L'ho detto esplicitamente con Metz, ma lo si potrebbe vedere in modo analitico per tutti gli altri. In Pannenberg è chiaro che il concetto hegeliano di totalità è importante, ma anche nei filosofi che ho citato precedentemente. Perché osservo questo? Perché questa mi sembra una delle radici culturali che spiega come mai sia nata un'attenzione al tema della politica. Dopo l'illuminismo non è parso esservi alcun luogo adeguato alla totalità se non la storia e la politica, come modo di operare nella storia. Dunque la storia sembra essere il luogo più alto per l'uomo nel moderno, sicché far passare dall'etica alla politica significherebbe attribuire all'etica il suo oggetto massimo, perché è appunto la totalità. Di qui tutta la polemica chiarissima nella teologia del mondo di tipo mezziano contro l'individualismo, contro le etiche individualistiche. E di qui la scoperta appunto della dimensione politica, che in fondo è far giocare contro un concetto di particolarità il concetto di totalità. Ecco, quello che mi preme qui estrapolare da quello che ho detto finora è che l'investimento etico nella politica corrisponde al tentativo di trovare all'etica un oggetto e un luogo adeguato. E questo unico oggetto adeguato, Hegel insegna e resta per conto mio il maestro della modernità, può essere solo un oggetto totalizzante, totale. Si potrebbe aggiungere ancora che si potrebbe ridescrivere questo processo naturalmente usando la chiave categoriale della secolarizzazione, mi pare evidente. Il procedimento della secolarizzazione non è solo un procedimento di laicizzazione, è anche proprio un procedimento di adeguazione al proprio oggetto. Bisogna che quel contenuto religioso, teologico, oppure bisogna che quel contenuto etico abbia un oggetto corrispondente e adeguato al suo spessore, donde la storia e la politica come unico oggetto possibile, perché sono il tutto dell'uomo. Questo è però solo un aspetto dell'itinerario che si è svolto, perché se noi riprendiamo un attimo in mano lo stesso itinerario, non un altro, e si potrebbe rifare l'esempio con gli stessi autori, troveremmo che questo procedimento, proprio perché ha come fine, come meta, un raggiungimento di una totalità adeguata, è costruito al suo interno secondo una sorta di insaziabilità, che in termini più tecnici dal punto di vista filosofico si chiama dialettica. La filosofia l'ha esibito al massimo grado, già in Hegel naturalmente, ma ancor più caratteristicamente in Feuerbach, perché in Feuerbach c'è un passo avanti rispetto a Hegel che produce la negazione della teologia e la negazione del cristianesimo in base, questo mi pare il punto saliente e interessante, in base all'idea di dare realizzazione ai principi hegeliani. Feuerbach non è mai stato un anti-hegeliano, o non ha mai creduto di essere un anti-hegeliano. Ha sempre creduto fin dall'inizio della sua attività di essere uno che realizzava i principi di Hegel. Ma il paradosso è che la realizzazione, per realizzarsi davvero, assume la forma della negazione. E se volete un altro passaggio di una realizzazione che si rovescia in negazione, pensate alla massima realizzazione dell'Ottocento, in questo senso realizzazione e negazione, che è Nietzsche, il quale non può più limitarsi, come era Feuerbach, ad una negazione del teologico, ma deve giungere anche una negazione della verità. Ma giunge a questo attraverso un processo di realizzazione e non di opposizione, almeno nelle intenzioni. Che cosa si tento di evidenziare attraverso questi riferimenti? Che c'è una specie di inquietudine interna a questo processo che io delineavo, che porta gli autori mano a mano a ricercare una totalità sempre più adeguata. Ma una totalità sempre più adeguata finisce per fungere da negazione della totalità precedente, per mettere in crisi la negazione precedente. Di questo ci sono tracce anche in teologia, perché anche in teologia il teologo, che più di ogni altro ha bisogno di mantenere una riserva, fa intervenire una totalità non totalmente esaurita. Penso alla riserva escatologica di Metz, penso in Pannenberg alla distinzione tra totalità di fatto e totalità salvezza. Anche il teologo continuamente, mentre cerca nella dimensione politica il luogo per la realizzazione del contenuto e per la manifestazione del contenuto teologico, però deve subito mettere avanti le mani e dire: questo luogo però non è totalmente adeguato. Donde la riserva escatologica, donde la distinzione appunto di Pannenberg tra totalità di fatto e totalità salvezza. Allora, che cosa viene in luce attraverso questo itinerario? Viene in luce che nel moderno e nello stesso tipo di cultura che ha messo l'accento sul tema della totalità, si è messo l'accento sul tema della dialettica. Come d'altro canto Hegel con tutta chiarezza aveva detto fin dall'inizio: non c'è totalità se non come totalità dialettica. Questo movimento però è un movimento che mangia se stesso, se mi posso esprimere così, che introduce un principio negativo là dove voleva essere positivo, perché introduce una sempre ulteriore dialettizzazione della totalità raggiunta. Se vogliamo di nuovo avere un esempio di questo, pensate a quello che potrebbe essere considerato per certi aspetti come l'ultimo anello di questa catena, che è Sartre, dove si teorizza esplicitamente la distinzione tra la morta totalità delle istituzioni e la totalizzazione della dialettica, che è in grado di rimettere in movimento e in discussione la totalità delle istituzioni. Allora, concludendo questo aspetto, il momento dell'etica che si investe nella politica per darle senso produce, nella stessa logica, in base agli stessi principi, anche un elemento di crisi. Perché mentre l'etica si occupa del politico e assume il politico come luogo della propria realizzazione, in base al concetto e alla categoria della totalità, mano a mano scopre che è sempre necessaria una totalità più ampia, più onnicomprensiva, e dunque mette in crisi quella stessa totalità che aveva scelto. Ed ecco allora il secondo tema, quel secondo fatto, come io lo considererei, l'etica come crisi del politico. Ma qui bisogna operare delle distinzioni, andare con cautela, perché certamente non è avvenuto immediatamente che l'etica sia crisi del politico. Nonostante questo itinerario che io ho tentato illustrare, si potrebbe anzi osservare che vi è una larga parte della cultura moderna che ha tentato di fare un processo di sterilizzazione dell'etica, quello che io chiamerei un tentativo di utilizzare l'etica come una sorta di luogo minimo, luogo rifugio. Per un filosofo è chiaro, e per un teologo credo altrettanto, che viviamo in tempi di crisi della metafisica, di crisi dei grandi sistemi, di crisi dei grandi concetti di verità. Rispetto a questo grande processo di dissoluzione, uno dei tentativi di resistere al processo medesimo è stato proprio quello di utilizzare l'etica, che chiamerei allora qui un'etica del luogo minimo, come luogo, come punto di resistenza. Come scrive in un bell'articolo sull'etica un amico e collega Ciancio, l'etica, non si può negare che l'etica ha retto più a lungo della metafisica. E anzi, ancora oggi, in molte occasioni, può sembrare che laddove un discorso metafisico non è più proponibile, pur tuttavia un discorso etico sia ancora fattibile. Vi è dunque nell'etica una sua forza di resistenza rispetto alla crisi. Uno spazio minimo. I colpi, infatti, che hanno demolito nella cultura moderna l'edificio della metafisica, come è evidentissimo in Kant, non hanno intaccato l'etica, anzi hanno fornito persino la possibilità per dare all'etica un nuovo fondamento. E mano a mano andiamo avanti nella cultura moderna, ritroviamo una riabilitazione dell'etica che ha sicuramente il significato di dire un luogo minimale ma importante di certezze a cui far riferimento in una cultura che ha abbandonato i grandi sistemi metafisici, fino al progetto esplicito, appunto, penso a Patzig, di un'etica senza metafisica. D'altronde, come accennavo prima, anche nella vita quotidiana mi pare che sperimentiamo sovente precisamente la messa tra parentesi della dimensione metafisica a favore di una evidenziazione dell'etica. E i teologi, molte volte per ragioni di carattere pastorale, hanno abbandonato con una certa tranquillità tutta una serie di presupposti metafisici, o comunque non se ne curano troppo, purché si salvino magari dei principi di carattere etico. Ma è possibile questo? Ossia, l'etica intesa come etica del luogo minimo, come sorta di diga di resistenza, si potrebbe dire come punto di incontro e di consenso, regge? Io penso di no. Penso di no perché nella storia ci sono già state spallate sufficientemente forti che mettono in discussione anche l'etica come tale, svincolata da una metafisica. Nietzsche ha smascherato genealogicamente l'esistenza dei valori, anzi addirittura ha evidenziato come i valori siano valori che sono contrari alla vita, donde la critica che riduce tutta l'etica ad ascetismo. Di più, nella cultura più recente è venuto meno il fondamento del soggetto, la crisi del concetto di soggettività e del concetto di soggetto porta a domandarci a chi si rivolge l'imperativo etico. E per prendere un teologo ancora, Bonhoeffer ha messo bene in luce nella sua etica la impotenza dei sistemi morali di fronte alla storia, quando ha mostrato, facendo un'analisi precisa della Germania del suo tempo, come proprio il nazismo metta in evidenza la crisi dei sistemi etici. Tutti quei venerabili sistemi etici e soltanto etici che avrebbero dovuto costituire un argine contro quello. Dunque tenderei a dire che l'etica come luogo minimo si configura semplicemente come un luogo per ritardare la crisi, ma non per impedirla. E allora arriva il secondo passaggio, quello con cui dobbiamo confrontarci, quello per cui esiste oggi anche una crisi della morale. E con questa crisi della morale, dei fondamenti morali, la difficoltà di ritrovare dei fondamenti solidi alla morale, che produce, per le ragioni dette prima, anche una crisi del tentativo di radicare nella morale la politica, donde quella situazione di diffidenza anche nei confronti della politica che io mettevo in evidenza all'inizio della mia relazione. In fondo sono in crisi entrambi i modelli, tanto il modello di una etica, di un'enfasi etica che vuole investire il massimo nella politica, quanto il modello più debole, più cauto, che si limita a dei valori minimali perché si presenta estremamente fragile di fronte alla potenza fattuale della storia. E allora? Allora penso che bisognerebbe riflettere di più e meglio sul concetto di crisi. L'etica come luogo minimo, tendevo a dire, è un'ipotesi di lavoro, l'etica come luogo minimo non basta. E non basta non per delle ragioni, come dire, ideologiche, non perché non mi piace. Direi che sono delle ragioni di fatto che mettono in evidenza che l'etica come luogo minimo non basta. Siccome l'etica come luogo minimo, l'etica come argine, viene dopo la grande crisi della modernità, dopo quel movimento che aveva tutto investito nella storia, ecco che in un certo senso questo tentativo è già travolto da quello che l'ha preceduto. Perché quello che ha preceduto è stato un movimento di secolarizzazione così radicale, così forte, ha investito, ha giocato con delle categorie, come dicevo, che sono la categoria della totalità, in modo così impegnativo da consegnarci il tema della storia e il tema della politica come dei temi rispetto ai quali non possiamo sottrarci. Allora proverei a fare un'ipotesi rovesciata, per così dire, rispetto alla precedente. L'etica si presenta nel mondo moderno non come un luogo minimo, ma come un luogo massimo. L'etica, attenzione, ripeto, questo secondo me, nello mio schema interpretativo, non perché io voglio che sia un luogo massimo, non perché io voglio istituire un'enfasi, è un discorso di fatto. Resta che l'uomo secolarizzato della modernità, che ha come orizzonte primo di propria autocomprensione la storia, non può sottrarsi a questo fatto che nella storia ne va di tutto e che il suo comportamento rispetto a questa storia, ecco l'etica, la dimensione etica, il suo comportamento rispetto a questa storia ha una funzione decisiva. In questo senso rileggerei e accetterei Schmitt non tanto per fatto che, per la sua asserzione che nel politico vi sia una traccia di sostanza teologica, il che potrebbe aprire per esempio alla possibilità del politico di rimandare oltre di sé, ma piuttosto come il riconoscimento di un fatto: la politica ha di fatto assunto sostanza teologica. La politica ha di fatto assunto sostanza etica, perché essa è l'orizzonte al quale noi oggi non possiamo sottrarci. E non un orizzonte parziale, ma appunto, come la parola orizzonte mette in evidenza, un orizzonte globale. Se questo è vero, però, occorre procedere nelle distinzioni, perché non vorrei semplicemente che il senso del discorso si configurasse come un rovesciamento, come dire, un salto da una posizione all'altra. Dire che l'etica è di fatto diventata il luogo massimo, perché è l'orizzonte entro cui ci collochiamo, non significa per niente accedere ad una concezione secolarizzante. Non significa per niente pensare che la storia sia una sorta di mimesi laicizzata di valori trascendenti, che a questo punto andrebbero tradotti, insteriliti e perduti nella storia. Al contrario, è rendersi conto di una cesura che è intervenuta nella storia. La storia dà luogo di manifestazione di principi altri da sé, l'etica, la teologia, si sta autocomprendendo come l'orizzonte in sé legittimato. Questa è la novità. Questo è perché lì ne va di tutto, perché se io non sto dentro questo orizzonte e dall'interno l'ho fatto scattare, non vi è possibilità alcuna di far intervenire altri discorsi. L'etica come luogo massimo, dunque, vuol dire semplicemente riconoscere un fatto, riconoscere la secolarizzazione come una secolarizzazione avvenuta e cercare di leggere dentro questo fatto. E allora si potrebbe uscire da quella demonizzazione o al contrario enfatizzazione positiva della secolarizzazione che ha in molti casi segnato i dibattiti degli anni precedenti. Per cui da un lato o tutto era buono perché essendo il secolare un trasferimento di un principio teologico doveva conservare almeno una traccia di quel principio, oppure tutto era negativo perché appunto il secolare, essendo una secolarizzazione e una laicizzazione, diventava una trasformazione che impoveriva. Credo che così leggendo la vicenda sia andato perduto invece il tratto saliente della secolarizzazione, che non è in questo, nel passaggio, lo schema del passaggio presiede sia all'una interpretazione positiva che all'altra interpretazione, quella negativa. La secolarizzazione è al contrario, mi sembra, la cifra di una cesura. E una cesura è un atto violento. Quindi la modernità sta sotto il segno doloroso, perché violento nella sua origine, di uno scambio, di uno scarto di paradigmi. Siamo in un altro paradigma che pone la storia come il nostro orizzonte, ma questo paradigma non si è sostituito pacificamente al paradigma precedente. Non è la trascrizione e la trasformazione, ma ne è la rottura, l'alternativa, dunque con tutta la tensione che a ciò si connette. Ecco che allora, se teniamo fermo questo tema della cesura, forse abbiamo un elemento per rileggere il tema dell'etica che può anche condurci, e così mi avvio all'ultima parte del mio discorso, può anche condurci avanti in termini propositivi. L'etica, abbiamo detto, è luogo massimo, perché è il luogo in cui oggi prende forma, e lo dico da filosofo, l'interrogazione ontologica circa l'essere. Ma è anche il luogo in cui si pone la questione di una destinazione politica. E l'etica è il luogo di questa doppia apertura, ma un luogo che nasce dalla discontinuità dell'orizzonte del moderno e che pertanto deve proteggere questa discontinuità. Di qua mi pare che vengano fuori alcune conseguenze sulle quali è opportuno riflettere. L'etica è il luogo, dicevo prima io, in cui oggi si pone anche il problema metafisico-ontologico. Non saprei cercare altro luogo se non questo per riproporlo. Però, non per fare il semplice itinerario opposto, dalla metafisica all'etica si faceva una volta, adesso facciamo dall'etica alla metafisica, no? Perché l'etica, mentre è il luogo in cui forse possiamo riproporci anche il tema metafisico, non è però la metafisica, non è antologia. Mi sembra sempre molto interessante che una delle categorie etiche fondamentali di Kierkegaard sia una categoria che è quella della prova, che non si lascia collocare da nessuna parte, che è sempre, che non è né nell'etica né ancora propriamente nella fede. È tra le categorie. L'etica è forse per sua struttura qualche cosa che continuamente sfugge, perché continuamente introduce elementi di crisi. Allo stesso modo, dicevo che dall'etica o a partire dall'etica si propone il problema politico, ma l'etica non è la politica. Basterebbe pensare a certe moderne teorizzazioni etiche come quella di Levinas, che concepiscono giustamente l'etica piuttosto come il luogo di una sottrazione che non come il luogo di una posizione, e la polemica che in lui è presente contro la totalità. L'etica, da questo punto di vista, allora appare piuttosto anzitutto crisi della politica che non luogo a partire dal quale dedurre degli schemi di azione politica. Ma in ultimo, e questo mi sembra ancora più forte e decisivo, l'etica è contestazione dell'etica stessa come sapere, come sistema e come sapere. Questo è il doppio movimento che si ritrova nell'etica di Bonhoeffer, che si intitola etica, ma che è al tempo stesso una violenta e forte e amara requisitoria contro i sistemi etici. Fatto etico e fatto cristiano, assunti addirittura come due poli in opposizione. Da questo punto di vista, lo sappiamo fin troppo bene, l'etica come sapere, come sistema di regole, arriva sempre troppo tardi. Ma queste ragioni sono precisamente le ragioni che mi fanno pensare all'etica come un luogo di salvezza. Proprio il fatto che l'etica non si lasci formalizzare, vorrei dire, in nessuno schema. Proprio il fatto che l'etica sia il luogo in cui si può porre il tema dell'essere, ma non sia ontologia. Proprio il fatto che l'etica sia il luogo in cui si può proporre il tema politico, ma non sia politica. E ancora, che l'etica sia il luogo in cui emerge la tematica etica, ma non riesca a costituirsi come sistema di norme etiche, proprio questo è la ricchezza dell'etica. Perché l'etica diventa il ricordo di quella lacerazione che passa attraverso l'uomo e in particolare l'uomo moderno. Una lacerazione che non bisogna chiudere, che non bisogna ricucire, che non bisogna ricomporre in un sistema della continuità, ma che è attenzione etica lasciare aperta, tenere aperta, perché solo il ricordo di questa frattura è la possibilità per una cauta, prudente ripresa, perché solo il ricordo di questa frattura è la contestazione di quella metafisica dialettica che pretende di comporre la totalità come una totalità finalmente raggiunta, oppure di quella forma politica che pretende di riunire e di esaurire nella sua realizzazione storica l'intero. In questo senso mi verrebbe da dire che l'etica non è mai, propriamente parlando, il tempo del presente, un tempo dispiegato e, per dirla in tedesco, vorhanden, disponibile davanti a noi. L'etica è sempre il preservare la possibilità di un tempo altro, affrettati e tardi, per accennare a qualche parola evangelica, come tempo che resta altro e che non è disponibile. Per questo l'etica non può mai maneggiare l'esistente, giunge sempre troppo tardi o troppo presto, ma in questo suo non arrivare a maneggiare l'esistente esibisce quel margine di alterità che è l'unica condizione a cui noi possiamo oggi aggrapparci. Si ritrova allora qui rovesciato l'itinerario che ci ha mosso. Mi pare che se riprendiamo la linea che ho seguito, potremmo dire che di fatto nella nostra storia l'etica è stata anzitutto posizione del politico e poi ha dovuto scoprirsi come primo passo per una crisi del politico, amaramente. Io suggerirei di rovesciare l'itinerario e di pensare al contrario, anzitutto alla differenza tra l'etico e il politico, anziché la possibile continuità, perché solo partendo dalla differenza torna a essere poi possibile anche pensare le possibili unità. E vorrei qui fare un esempio, una applicazione, una esemplificazione. Per usare delle categorie che ho tentato di proporre, distinguerei tra senso e significato. E mi spiego subito con cosa intendo con questi termini. Intendo con senso una capacità di orientare in una totalità delle scelte che invece hanno un carattere specifico e puntuale e hanno in sé la loro ragion d'essere e la loro giustificazione, e chiamo queste scelte dei significati. Bene, nel passato mi sembra che si sia quasi sempre proceduto così: indagine sul senso e poi tentativo di dedurre dal senso come costituito dei significati. Mi pare che questo senso, dopo la crisi della metafisica, sia difficilmente ricercabile in sé, che oggi noi non possiamo che muoverci anzitutto a livello dei significati, ecco perché dicevo che l'etica è diventato il luogo massimo, ma dobbiamo cercare, se vi sono in quegli elementi frammentari che sono i significati, degli spazi che rendano possibile riproporre il tema del senso, ossia se esistono dei significati capaci di diventare illuminanti per altri significati e per costituirsi come progettuale orizzonte di senso. Guardate che nelle mie intenzioni, è difficile farlo, metterlo in evidenza in un discorso così breve, ma nelle mie intenzioni non si tratta di semplicemente rovesciare l'itinerario, perché so bene che tra senso e significato non vi è una continuità, al contrario, vi è una tensione e una potenziale esclusione. I significati si costituiscono come significati proprio perché sono capaci di spiegarsi da soli, tendono a spiegarsi da soli e dunque tendono, per una loro dinamica interna, ad escludere il senso. Ecco che allora l'itinerario che tento di proporre, dai significati al senso, non è affatto un itinerario pacifico, quieto, è al contrario un itinerario estremamente di estrema tensione, perché sa che i significati tendenzialmente escluderebbero il senso, ma è proprio la ricchezza dei significati, la positività di quello che sta dentro i significati, che potrebbe innescare, con analogie a quel processo che ho tentato di descrivere prima a proposito dell'etica, un superamento dei significati stessi, una messa in crisi. È la infinita grandezza dei significati che porta a travalicare il significato verso il senso. E che qui un ultimo aspetto sul quale vorrei invitare a soffermarci. La politica perché diventa importante? Diventa importante perché la politica non è il luogo della realizzazione etica. Non credo che sia questo. C'è un'autonomia del politico che non impedisce questo schema della continuità. Al contrario, mi sembra che la politica sia il banco di prova a cui l'etica non si può sottrarre, perché un'etica non può mai essere solo un'etica delle intenzioni, ma sempre un'etica delle oggettività anche. L'oggettività vuol dire il farsi cosa, il farsi altro. L'etica non è mai pura interiorità, e in questa sua tensione a riconoscersi nella realtà, essa diventa oggetto e quindi entra in contatto con il mondo della politica. Vorrei chiudere con un'immagine che forse però può aiutare a, rileggere, a ripensare alle cose che ho tentato di dire. Un'immagine che è classica, il mito degli androgeni, e che un collega Vitiello ha ripreso recentemente in un suo scritto. Noi tutti conosciamo la storia di Giove che dà ordine ad Apollo di dividere l'umanità, in cui uomo e donna erano in un unico individuo, e che appunto impone ad Apollo di tagliare questa unità in due metà. Ma sappiamo anche che Giove, per pietà, ha fatto una cosa di cui dovremmo ricordarci e su cui dovremmo riflettere. Ha poi fatto sì che sia la faccia che gli organi di riproduzione venissero girati, in modo che la faccia, ossia la coscienza, guardasse il luogo della ferita, e gli organi di riproduzione, ossia il desiderio, anch'essi guardassero il luogo in cui l'umanità era stata spezzata a mezzo. Io penso che la via oggi per pensare l'unità muova dalla presa di coscienza, tanto a livello appunto della coscienza quanto a livello del desiderio, che la frattura ha segnato ormai in modo irreversibile, e con frattura intendo dire la secolarizzazione, ha segnato in modo irreversibile il moderno. Ma questa irreversibilità della frattura non ha tolto però la possibilità di riguardarsi e di ridesiderarsi, e quindi una possibilità di una unità che non è più la unità di una volta, è certamente un'unità diversa. Questa fu la pietà di Giove. Grazie. Un grazie sincero anche al professor Perone. Qualcuno prima, scherzando mentre si prendeva il caffè, mi diceva: ma come fai tu a stare attento? Io dormo. L'importante non è prendere un caffè, è appassionarsi dei problemi. Quando avere la fortuna di avere dei pensatori come oggi vicino a noi dovrebbe essere per noi un alimento, una specie di, direi, di stimolazione. Si diventa più uomini man mano che si diventa capaci anche di pensare criticamente noi stessi. Ho tenuto qui anche in sacrificio il professor Totaro, perché penso che questi tre quarti d'ora, ringrazio il professore anche perché è stato esemplarmente dentro i tre quarti d'ora, questi tre quarti d'ora di dibattito potrebbero essere un dibattito anche a due o tre voci qui. Inviterei anche, tenga presente anche il nostro Nicoletti, eventualmente lui veda come questi due interlocutori hanno tenuto presente il suo schema. Io mi compiaccio del fatto che tutti e due hanno dimostrato di aver letto, di tener conto dello schema. Io dirigo parecchi convegni, ma mi capita quasi tutte le volte, quando io preparo o faccio preparare un dossier preparatorio, che nessuno poi tiene, fa morire il dossier e ricomincia tutto da capo. Quindi vorrei anche ringraziare i due che hanno parlato, perché hanno veramente maturato le loro riflessioni offerte a noi anche in base al lavoro, sul lavoro di Nicoletti. Quindi abbiamo qui tre che potranno interferire, e poi voi potrete interferire chiedendo anche eventualmente qualche altra cosa al professor Totaro. Ecco, ringrazio il professore anche perché veramente ha tenuto fede a quella mia scherzosa sollecitazione a partire da un qualche cosa di chiaro, ma è stato molto furbo lui. L'inizio cosa è stato? Nel dirci lo schema. Prima parlerò della come fondazione e poi parlerò della crisi, ed è stato chiaro nell'eseguire queste battute iniziali. Scherzo. Mentre lui parlava, caro, mi permetti, caro Boff, che io faccia il prepotente teologo e funzioni anche come un, direi, un manipolatore, una avevo accennato all'inizio, questo lei non era presente, che questo nostro discorso lo facciamo anche contestualizzandolo con Basilea. Io ho in mente l'itinerario di questo processo di ricerca dell'unità, interessante, ricerca dell'unità, nel tutto il cristianesimo, ha avuto due battute, e ancora teso fra due piste, quella di riconciliarci, direi, sul teologico propriamente detto, fede e Costituzione, e di riconciliarci e ritrovare l'unità sull'etico, movimento, vita e azione. Sembra quasi che a livello ecumenico si sia esaurito il primo momento, cioè di aver fiducia nella possibilità di ricostruire, riconciliare nell'unità i cristiani partendo dal teologico propriamente, del dogmatico propriamente detto. E oggi si punta di più sull'etico, cioè riuniamoci, sembra quasi vincente la pista dell'operosità di cui si accennava anche prima, operiamo la nostra salvezza dedicandoci alle opere orizzontali verso i fratelli. E difatti, avete osservato, anche a Basilea il grande tema è giustizia, pace e salvaguardia dell'integrità del creato. Quindi sembra confermato questo discorso di un etico, momento etico nel quale si verifica perlomeno, non direi che si esaurisce, è chiaro, ma si verifica la sincerità e l'autenticità del momento anche teologico. E tra parentesi posso rivelare una piccola cosa: pareva che qualche anno fa, anche a livello di Chiesa Cattolica esclusiva, non movimento ecumenico, dalla congregazione della dottrina della fede, ci fosse questo tipo di coraggioso processo o progetto, ecco, di porre alla base il momento etico come momento da cui far maturare poi un ripensamento anche del teologico. Poi non è che sia andato avanti quel progetto, non nel senso totalmente induttivo, cioè dall'etico solo esplicitando cavar fuori chiaro il teologico, ma c'è stato un momento in cui sembrava maturasse anche questa saporosa novità nell'ambito cattolico, e noi stiamo dibattendo queste problematiche. In questo senso anche sono compiaciuto, contento di aver sentito queste cose che traducono in problema urgente per noi questa istanza di porre alla base l'etico. Ma allora adesso, come vi ho preannunciato, abbiamo un 40 minuti, ecco, sono diventati da 45-40 minuti per poter dibattere, ma ripeto, il dibattito potrebbe essere anche qui, trasversale o orizzontale, eccetera. Comunque tu, Nicoletti, almeno alla fine dovrai dire qualcosa, se no, dunque c'è Penso, sì, non ricordo più, scusami il tuo nome. Tu? Sì, sì, parti, ma spara. So che tu sei svelto, quindi. Lo so, sei bravo, sei umile. No, volevo dire, sì, sono convinto di questa dimensione della crisi, anzi della mia idea, no? Cioè l'etica come crisi, la metafisica come crisi. Però non, cioè, alcuni punti non sono riuscito forse a seguirli. E il fatto che tu dicevi che la secolarizzazione è un fenomeno ormai del mondo nostro che è un fatto irreversibile, quasi che la secolarizzazione fosse una cosa negativa. Cioè, esiste una dimensione negativa della secolarizzazione, ma esiste anche la dimensione positiva della secolarizzazione, questo è chiaro. Se io la secolarizzazione la considero soltanto dal punto di vista di intelletto e conoscenza, diciamo, della ragione illuministica, per cui praticamente io vedo che il sacro non può essere nelle cose, e allora lentamente, quando trovo le spiegazioni, elimino il sacro, e perciò diciamo che la società si secolarizza e quindi avanza nel mettere in luce le cause delle cose, per cui il sacro va sempre eliminato, per cui noi arriviamo a secolarizzare tutto. Ma allora io dico, questo va bene a me, perché allora finalmente si è capito che il sacro non può essere messo in luce attraverso, diciamo, le categorie dell'intelletto conoscente, ma è ciò che si sottrae ad esse. Una volta che noi lasciamo questo spazio al sacro, come il sottrarsi alle categorie di intelletto conoscente, allora noi vediamo che la secolarizzazione, Deo grazias, è stata una dimensione positivissima, e ringrazio anche la rivoluzione francese, che non ha capito niente l'umanismo di questa cosa, però indirettamente ci ha portato a riflettersi a questo punto. Primo punto. Secondo punto, allora arriverei a dire in che modo l'etica può essere il luogo della crisi, o la politica è il luogo della crisi. Allora io mi rifarei prima a Totaro, che volevo dire quindi non tanto, cioè che l'utopia la considero non tanto una, dopo lui ha detto Mannheim, non tanto una programmazione quanto la programmazione della non programmazione. Questa è l'autentica utopia, cioè eliminare ogni programmazione delle autentiche. Allora io direi, e tu prima parti da Feuerbach, adesso faccio saltini indietro poi dire perché mi sembra parlare un po' troppo, parte da Feuerbach. Allora tu dici che Feuerbach prende, cioè sostituisce, prende in sé la politica, prenderebbe in sé l'etica e la religione. Ma va bene, ma questo Feuerbach fa questo appunto perché ha un concetto falso della dimensione del religioso, perché lui voleva la sicurezza. È ovvio praticamente che se noi mettiamo che la dimensione del religioso vuol dire sicurezza, allora questa è una falsa dimensione del religioso. Ma se io invece ammetto che la dimensione del religioso, perciò del sacro, è insicurezza praticamente, è rischio, è apertura, è stroncatura, è mettere in crisi, è la crisi della crisi. Quindi su questo punto allora io direi che ringrazio la secolarizzazione e ringrazio anche Feuerbach, il quale però indirettamente ha messo in crisi questo punto. Non so se parlo troppo, vado via perché è troppo tardi. Sei messo in crisi tu? No, no, perché troppo, parlo troppo, dopo ci sono parecchi da parlare. Grazie. Chiedo scusa. E io chiedo scusa a te che non ricordo più il cognome. Sì. Sì. Allora io sarò anch'io brevissimo. Ah sì, bravo, l'anno scorso. Sarò brevissimo nelle cose che volevo dire. Volevo fermarmi su un punto solo, in ogni caso, perché le cose sarebbero molte. E cioè, riguardo la relazione del collega Perone, insomma, io concordo su questo nuovo spazio dell'etica, no? E soprattutto in quanto quest'etica avrebbe in qualche modo il compito anche di aprire, anche se è una problematica metafisica, no? Una problematica metafisica, non problematica, problematica tra virgolette. E però ciò che mi ha, sono d'accordo su questo, anche se poi ho qualche problema nel calare tutto questo discorso in un versante ermeneutico tout court, no? Che poi è la tua posizione da un certo punto di vista. Tuttavia la cosa che volevo, che più mi premeva era un'altra, cioè che qui poi a un certo punto si mette in luce come questo spazio etico, in realtà da un lato è storicamente stato anche così, fondi la politica ed è posizione, dall'altro lato mette in crisi la politica, fin qui mi va bene. Ma dove francamente sono un po' in dissenso, in questo caso coinvolgerei anche Totter, cioè in questa idea che la politica ancora, comunque la si voglia concepire, sia lo spazio della totalità. A me pare che il mondo contemporaneo, non più moderno, non a caso voi avete sempre parlato della modernità, il mondo contemporaneo, dopo la crisi delle ideologie, non concepisce più la politica come totalizzante. Questo è un punto che a mio avviso andrebbe tematizzato oggi. Sarà una mia sensazione. Io sto studiando Ortega, adesso ho scritto un lavoro, Ortega diceva la politica è la corteccia delle cose, non è il nocciolo. Io credo che se noi andiamo ancora, non dico hegelianamente ciò è vero, ma dopo la crisi delle ideologie non possiamo più sostenere, su questo potrei argomentare, ma non possiamo più ormai sostenere, da un certo punto di vista Perone tu lo sostenevi, non possiamo sostenere che il mondo della politica è il mondo totalizzante. E non tanto perché non è etica o perché è immorale, da un certo punto di vista, ma qui si può argomentare. Quanto perché quest'idea che la politica possa far felici gli uomini, che ne dicano, e da qui è venuta anche la rivoluzione francese, ormai ha fatto il suo tempo. Questo è stato dall'illuminismo in avanti. Sono stati due secoli in cui noi ci siamo ubriacati di questa idea che la politica possa far felici gli uomini, perché dà un'idea totalizzante della vita. Fino a quando nel 68 io ero giovane, e l'ho fatto il 68, dicevamo che tutto è politica. Non è vero. No, tutto non è politica, ma non nel senso di dire che tutto non è politica per delle ragioni che allora dicevamo. No, tutto non è politica perché la politica o la storicità non è il regno della totalità. Su questo punto mi pare che la riflessione non più moderna ma contemporanea debba essere portata più a fondo, perché le esigenze del mondo contemporaneo sono diverse, proprio da un certo punto di vista per quello che tu dicevi, cioè per questa frattura, per questa divaricazione, per questa secolarizzazione. Ma adesso io qui devo smettere perché mi pare che questo sia un punto molto importante. Grazie. E forse qui si apre anche il teologico, secondo me. Grazie. E non tanto per quello che tu dici, e non tanto perché il teologico, e infatti tu dicevi, su questo concordo, quanto teologico rimane e quanto politico rimane. Sono due mondi totalizzanti questi, forse anche nel teologico. è un mondo totalizzante il teologico. Oggi non si danno le teologie, perché quante se ne danno? E questo è, naturalmente qui si porrebbe un problema. Bene, grazie. Gamerro, ma dopo tu, dopo c'è Grillo, speriamo che racconti. Sì, sì. Già il termine della relazione del professor Toto non è più una domanda, ma adesso è una città. Cioè, di fronte alla riluttanza della politica ad astenersi dal caso decisivo, dopo queste due analisi, il recupero della trascendenza dal basso, l'etica del poco massimo, non diventa davvero il caso decisivo della politica appena la sua morte? Lo chiedo. E se così è, nella relazione di Totaro, se ho capito bene, il recupero dell'etica era un passaggio per la riteologizzazione, se ho capito. O almeno era una strada. E quindi associo a quanto ha detto questo amico, ma in questo caso non si va verso di nuovo una totalizzazione che prima volevamo appunto indicare. Seconda domanda. Nella sua analisi, se ho capito, mi pare c'è un concetto della parte positiva, ovviamente, propositiva, c'è un concetto di analogia che guida. Siccome Nicoletti mette in discussione questo concetto di analogia che è già presente in tutto questo, mi chiedo, nel suo concetto di analogia, se c'è qualcosa di dinamico, mi sembra, c'è un'esaltazione della differenza per la decisione. E perché personalmente gradirei fosse detto in modo più chiaro. E l'ultima riguarda il veicolo comunicativo. Una domanda, mi sembra che nella conclusione sua venga messo in luce che per raccontare questa emergere quasi dell'etica come luogo massimo e conservare la differenza che include sia appropriata più l'immagine che il concetto. E allora mi domando se questa opposizione polare, per adoperare una espressione quartiniana, tra immagine e concetto non andrebbe recuperata nel nostro discorso di oggi. Grazie, ha parlato Guardini adesso. Allora Grillo. A me sembrava che finora non fosse questione del detto tutto è politica di eredità sessantottesca, ma che fosse piuttosto in questione l'affermazione capovolta, cioè che la politica è tutto. Ultimamente invece abbiamo sentito qualche perplessità anche sul riconoscimento, che a me pare comunque incontestabile, della valenza politica comunque di qualsiasi realtà. Ma io queste cose le dico proprio in seguito all'ultimissimo intervento. Volevo invece inserire due elementi nuovi per chiamare in causa anche chi ha steso il lavoro preparatorio, due elementi nuovi che riguardano i primordi e riguardano invece poi anche il Novecento. Il primo elemento si riferisce forse più alla prima relazione ed è Quinto Mucio. Quinto Mucio Scevola, che viene evocato nelle prime pagine, è stato studiato soprattutto da Aldo Schiavone, che ha scritto un bel libro che si intitola Nascita della giurisprudenza, e che fa di Quinto Mucio il fondatore della giurisprudenza, cioè del diritto in quanto tale, come strumento di azione politica. Ecco, ed è sintomatico, secondo me, che a Quinto Mucio sia attribuita la cosiddetta teologia tripartita e comunque una distinzione di quel tipo del piano teologico. Questo mette in luce, secondo me, come fin dal suo sorgere, la dimensione politica è legata e in tensione con la dimensione teologica e l'emanciparsi, direi quasi, come tecnica politica del diritto, ha dovuto fare i conti con il suo aprirsi al trascendente. Ma direi che invece la cosa più importante, il personaggio anche più importante da chiamare in causa in questo contesto, soprattutto dopo la seconda relazione, è Benjamin. E non tanto forse il Benjamin che è stato citato direttamente, cioè quello del frammento teologico-politico, quanto piuttosto il Benjamin della critica alla violenza. Perché secondo me... tipo di contesto, per tentare la soluzione del dilemma, ma è possibile evitare il conflitto? Si dà una possibilità per superare il conflitto che non sia contrattuale, che non sia comunque intrisa di potere, quindi di violenza. Perché nell'alternativa, e qui torniamo al piano giuridico, nell'alternativa tra un diritto naturale che giustifica i mezzi in base al fine, un diritto positivo che giustifica il fine in base ai mezzi, la risposta che Benjamin dà quasi a sorpresa al centro del saggio, secondo me si muove nella direzione etica, pur rifiutandosi quella dimensione almeno esplicitamente, ed è: il conflitto si può superare nelle cose. Nelle cose vuol dire per lui principalmente, in modo paradossale, prima di tutto nel discorrere, nella tecnica della discussione, che secondo Benjamin è la tecnica più vicina al mezzo puro per superare il potere e la violenza. Ma per noi diventa, in questo contesto, diventa un modo per ribadire l'importanza dell'etico e nello stesso tempo però per vincolarlo al politico. Voglio dire, l'attenzione alle cose nel senso della mediazione necessaria e della mediazione che elimina anziché aumentare il conflitto, questa è, penso, potrebbe essere una dimensione lungo la quale sviluppare il discorso e lungo la quale anche vedere come però nello stesso tempo, come fa d'altronde anche Benjamin, questo tipo di movimento sia un movimento che si giustifica ultimamente nel suo aprirsi a Dio. Perché quando, concludendo il discorso, Benjamin dice la violenza del darsi dell'ordinamento, la violenza del mantenersi dell'ordinamento non ci garantiscono. L'unica forma di potere è la forma di potere divina, che però noi traduciamo soltanto nell'attenzione alle cose. Ecco, questo penso potrebbe essere una prospettiva. Bene, grazie. Un amico, Boff. Poi se tu, Nicoletti, prima che rispondano loro, volessi dire qualcosa, sono cattivo, eh? Se no rispondi dopo. Io vorrei fare proprio alcune domande, soprattutto su quello che ha detto il professor Perrone, per capire meglio il tutto, se mi riesci. Prima di tutto un'osservazione, è stata parlata della teologia di qualcosa, cioè della teologia del genitivo, che indubbiamente procede anche, forse soprattutto, nel senso della colonizzazione di diversi settori, nella tendenza colonizzatrice di diversi settori. Credo che sia un aspetto di queste teologie, ma forse ce n'è un altro aspetto, un'altra possibilità, che è questa: non colonizzazione di nuovi settori, appropriazioni nuove e in questo ampliamento del proprio ambito, ma piuttosto un entrare dentro quegli ambiti e fare la teologia proprio a partire da questi luoghi settoriali. Io credo che se c'è una giustificazione possibile delle teologie del genitivo è proprio in questo senso: io mi metto nella concretezza e di lì teologizzo, semmai, no? Ecco, questo è una premessa che poi riprendo. Ecco, il tema, la domanda che voglio fare è questa. Dunque, adopero il termine suggeriti, quindi è più facile. Nel significato c'è questa pregnanza che esplode in qualche modo verso il senso. Questo ci è stato detto, è possibile attraverso il ricordo della dilacerazione iniziale. Mi pare che ci sia stata questa connessione, no? Ecco, il senso tende, il significato tende a chiudersi, però siamo in una situazione nella quale questa chiusura è superabile grazie alla memoria, alla memoria della dilacerazione, a questa apertura ancora verso l'altro, così esemplificata attraverso il mito degli androgini. Ebbene, io mi domando, questo altro concretamente come si configura? Come la molteplicità della storia che, alla quale noi ci apriamo attraverso un procedimento ermeneutico? È una domanda proprio che faccio. Ecco, se questo avvenisse, ecco allora mi pare che l'alterità assuma una fisionomia storica precisa e determinata, culturalmente accessibile. Se non che, se io mi accosto ermeneuticamente, solo ermeneuticamente, a questa alterità che mi s'affaccia, che cosa produco? Io produco una molteplicità, un dissensi, una varietà possibile di sensi, un mondo di significati, quel che voglio. Ebbene, di qui all'etica come posso passare? L'etica mi pare che esiga un salto, uno scatto, no? Cioè questi sensi devono diventare elementi, fattori, stimoli di un progetto, di una volizione, direi. Ebbene, che cosa può determinare questa volizione? Un decisionismo assolutamente ingiustificato oppure qualche cos'altro? E proprio queste sono le domande che faccio, non sono obiezioni, sono domande. Aggiungo soltanto un punto. Qui la fede mi pare che potrebbe giocare una funzione molto importante. Si mette dentro, ma in quel dentro riconosce, alla luce di un, non di un dato, ma di un dono, che noi chiamiamo rivelazione, proprio una possibilità di lettura, un senso. In fondo il Vangelo è beati i poveri. E questo è la interpretazione di un dato, la, mi pare, non soltanto la presentazione di un significato, ma proprio di un senso generale, di un senso globale, addirittura totalizzante in questo senso, ma come progetto e come possibile termine di volizione da un lato, no? E quindi di fondazione di un'etica che poi la teologia precisa, in definitiva, non semplice termine di una volizione, ma incontro di un dono che è l'avvenire di Dio. Ecco, qui allora avrei una soluzione, quindi mi tocca rifinirla nella direzione di Sartori, dopo tutto va bene, mi va anche bene. Ecco. Ma chiedo al filosofo, al quale questo discorso indubbiamente resta metodologicamente estraneo, ecco, che cosa resta da dire di fronte alla domanda della molla operativa e quindi in fondo etica e politica? Grazie. Bene, grazie. Adesso io non do la parola ad altri, tu no. Un'altra volta. Allora ritorno a ripescare il professor Totaro, se vuol dire qualche cosa di quelle prove. Voglio togliere il giusto spazio al collega Perone. No, ma siccome qualche cosa è venuta di interpellanza, magari una breve. Ecco, moderatamente. Moderatamente. È morale questo, etico, quando si dà una. Ma io vorrei dire allora qualcosa sulla vexata questio del rapporto politica totalità. Allora, molto sinteticamente, è giusto, e c'è un sensus communis su questo, affermare che non tutto è politica. È giusto. Quindi è giusto relativizzare la politica. Mi pare che siamo in sintonia con questo concetto. Però facciamo attenzione, non bisogna cadere, a mio avviso, scusatemi il termine un po' forte, no? Nella ingenuità, secondo cui una politica relativizzata cessa di essere in rapporto con la totalità. A parte che questo non è possibile per nessuna dimensione dell'umano, in quanto ogni dimensione dell'umano è in tensione con la totalità. Noi possiamo dire di più che proprio una politica relativizzata diventa una politica più impegnativa. Allora, faccio un passo indietro. La politica non è la totalità, però è sempre rapporto alla totalità. È prospettiva di totalità, anche se non è possesso di totalità. E quindi quando noi diciamo che la politica va relativizzata, polemizziamo con la pretesa della politica di essere il possesso della totalità, il luogo esaustivo della totalità. Non polemizziamo invece con la correlazione tra politica e totalità. Anzi, attraverso la relativizzazione, quindi la demitizzazione della politica come luogo esaustivo della totalità, ci mettiamo nella condizione di meglio coltivare il rapporto tra politica e totalità. Cioè ci mettiamo nella condizione di meglio capire la politica come prospettiva al tutto. Ma questo non basta. Cioè una politica che non è il luogo esaustivo della totalità, oltre a rapportarsi, oltre che essere prospettiva sulla totalità, è insieme rapporto con le altre dimensioni dell'umano, le quali a loro volta si relazionano alla totalità. Quindi c'è un doppio obbligo per una politica relativizzata. Il primo obbligo è costituito dalla relazione alla totalità. Il secondo obbligo è costituito dalla relazione alle altre dimensioni dell'umano, di cui la politica deve tener conto in misura maggiore, proprio perché non è il tutto, ma è una parte. Quindi la parzialità della politica la riempie di obblighi maggiori rispetto alle altre parti dell'umano. Cioè la politica relativizzata è una politica che deve essere più capace di interpretazione delle altre dimensioni dell'umano. E allora è qui che si pone il problema del rapporto tra etica e politica. Proprio perché sono dimensioni differenziabili, il loro incontro può essere fruttuoso. E allora, quando io nella relazione ho parlato di rieticizzazione della politica, non intendevo una convergenza assoluta di etica e di politica, ma intendevo una penetrazione nel politico da parte dell'etica, in modo da provocare il politico ad una ulteriorità di orizzonti all'interno delle proprie possibilità. Quindi l'etica come provocazione di nuovi ordinamenti politici. Tutto questo è reso possibile, ecco, da una considerazione disincantata della politica, ma che insieme non la svuoti di significato e in questo caso potremmo dire di senso. E mi pare di aver l'idea centrale. Mi può bastare. Grazie, una cosa importantissima. Poi se ho tempo io alla fine vorrei tirare una conseguenza per noi credenti e teologi. Allora, io ringrazio per le osservazioni perché mi sembrano tutte in modo diverso, però tutte intervenire con molta precisione sulla relazione, sollecitandomi a dei chiarimenti, ma chiarimenti che non nascono dal fatto che chi mi fa la domanda non ha capito, ma chiarimenti che nascono dalla insufficienza di quello che ho detto io, cioè dall'esigenza che io quello che ho detto lo espliciti o lo precisi o magari si rifletta addirittura sopra in modo più puntuale. Quindi mi sembrano tutti contributi molto preziosi a cui non si può rispondere dicendo io avevo detto così, basta. No, bisogna fare veramente un passo avanti. Cerco di fare quei piccoli passi che il tempo e le mie capacità mi consentono di fare in questo momento. Dunque, vorrei dire a Penzo che quella mia aggettivazione a proposito della secolarizzazione che è irreversibile, non è che ci sia una sorta di giudizio negativo sulla secolarizzazione. Al contrario, c'è il tentativo di non scindere giudizio positivo e giudizio negativo sulla secolarizzazione. Quello che io ritengo sbagliato nelle procedure che ci sono adottate fino ad ora, sovente diciamo, nei confronti della secolarizzazione, è quello di spaccarla a metà. C'è un aspetto buono e un aspetto cattivo, che questo è un modo cinico di reagire sui fatti storici che abbiamo davanti. Cioè riprendiamo sempre quello che ci fa comodo, il positivo o il negativo che sia. In realtà è che la secolarizzazione è positiva e negativa. Non possiamo dire che ha liberato il sacro finalmente, meno male, momento, l'ha anche annullato purtroppo. Cioè le due elementi non sono due aspetti della secolarizzazione, sicché ne prendo la metà buona e lascio la metà cattiva. Sono come le due facce di una medaglia, se volete, ma non posso prendere una faccia senza l'altra. Cioè la secolarizzazione è un evento che libera delle possibilità positive, ma nel liberare queste possibilità positive produce dei danni, e o gira la frase nell'altro modo come vuoi, i due elementi sono indissolubili. Questo io tenderei di prenderlo come un fatto e non come un giudizio. Poi su questo fatto, che io poi cerco di tradurre con il concetto filosofico più laico di cesura, di lacerazione, la cesura è, insomma, è una separazione. La separazione può essere molto positiva, diventando adulti mi separo dalla mia famiglia, ma certo ha anche degli elementi di rottura. Insomma, questo mi sembra che non possiamo distinguere i due aspetti. Non possiamo separarli in questo modo così, possiamo distinguerli logicamente, ecco, ma non possiamo separarli in questo modo. Donde viene che il vero tema che la filosofia dovrebbe affrontare oggi, mi pare sia il tema del finito, la finitezza. Questo è, se volete, una risposta a quanto diceva il professor Gamarro, ma anche a quanto diceva poi Boff, in un certo senso, perché l'analisi dovrebbe essere portata in quel luogo che è l'unico dato a noi, mi sembra, che è la finitezza, la quale è insieme, come la secolarizzazione, separazione negativa e apertura positiva, che è insieme più che finito e meno che infinito, che è insieme positivo e negativo, insomma. È l'indagine sul finito che è il luogo di ancoraggio per l'ermeneutica. Perché il finito è più che il finito, ma è meno che l'infinito. Cioè ci sono i due elementi che non posso separare. Non penso affatto che il finito mi porti all'infinito, pacificamente. Perché il finito si costituisce come finito nella separazione dall'infinito. Dunque, anzitutto, come appunto il significato, mi esclude l'infinito. Ma in questa esclusione, che è dolorosa, e nella riflessione sul carattere doloroso del costituirsi del finito, emerge che il dolore del finito in quanto finito dice qualche cosa dell'infinito, che altrimenti non sarebbe affatto dolorosa questa cesura, ma sarebbe quieta, ovvia, pacifica. Allora bisogna lavorare su questo, secondo me, e soprattutto non sul dato negativo, ma sul positivo, sulla traccia, perché è la traccia di potenza che c'è nell'uomo che produce il dolore della lacerazione. La secolarizzazione nasce per la grandezza dell'uomo, non per la miseria dell'uomo. E la grandezza dell'uomo è la sua miseria, perché è quella che produce la lacerazione e la separazione. Secondo me non c'è tempo, ci sono pagine bellissime in Cartesio, terza meditazione, quando dimostra l'esistenza di Dio, proprio a partire dall'analisi del concetto di finito. Finito e infinito, insomma, mi sembrano cose molto importanti. In questo senso direi ancora che l'ermeneutica, l'approccio ermeneutico, che è certamente quello che adopero io nel procedere, però esigerebbe dei chiarimenti che io non ho naturalmente potuto dare, ma uno dei quali almeno devo citare. Non direi, io reagisco in modo negativo quando mi si dice un approccio solo ermeneutico. Il problema è che secondo me nella nostra cultura contemporanea si scambia con ermeneutica ogni tipo di filosofia che eserciti l'attività della interpretazione. Allora, c'è una filosofia dell'interpretazione che, come dice un celebre collega, Vattimo, è la koinè del nostro mondo contemporaneo, ma questa si deve chiamare filosofia dell'interpretazione, ossia il problema dell'interpretazione si è imposto alla cultura contemporanea come un problema fondamentale. però naturalmente dal problema dell'interpretazione in quanto tale non emerge nessun ancoramento sufficiente per spiegarmi perché questo senso piuttosto che quell'altro, e infatti gli esiti post-strutturalistici o post-ermeneutici sono gli esiti della frantumazione, della infinità delle interpretazioni. Ma questa è la filosofia dell'interpretazione, questa è la koiné comune. L'ermeneutica è invece fin dall'inizio, secondo me, una ontologia del tempo della modernità, cioè non è una pura tecnica interpretativa, ma è porsi il problema dell'interpretazione sapendo che esiste un nesso tra l'interpretazione e l'essere, esiste quindi un ancoraggio di tipo metafisico, il quale ancoraggio di metafisico però non è presupposto, ma al contrario va guadagnato al termine dell'itinerario interpretativo. Però l'ermeneutica non è l'opposto dalla fondazione o l'opposto dall'ontologia, è semplicemente, secondo me, il problema ontologico o il problema della fondazione così come oggi si può porre. E ancora questo, penso che l'analisi del finito, dal punto di vista del filosofo che non può fare il ricorso alla Bibbia eccetera eccetera, l'analisi del finito approfondita possa far scaturire quella molla che dà anche il fondamento etico, perché nel finito c'è la traccia del positivo. Se non ci fosse nessuna traccia di positivo, è chiaro che l'ermeneutica non potrebbe essere che la pura teoria delle interpretazioni equivalenti. Un positivo c'è. Qui mi riallaccerei a quello che si era detto su Benjamin. Sono contento che sia stato colto, anche se io non l'ho citato, che c'era Benjamin dietro la mia relazione, Benjamin che ho studiato e che mi è molto congeniale. L'attenzione alle cose va letta proprio in questo senso, mi sembra, va letta come questo spessore, questa densità ontologica o teologica, direbbe Benjamin anche, ma nel senso della pienezza di essere che ci sta dentro la realtà. Ecco perché penso che la categoria della realtà dovrebbe oggi far aggio sulla categoria della possibilità, penso che la memoria dovrebbe far aggio sulla speranza, non per giocare l'uno contro l'altro, ma perché memoria e concetto della realtà sono categorie più comprensive. Ultima considerazione, molto giusto, io sono d'accordo con quello che diceva Savignano e anche però con la precisazione che introduceva Totaro, che condivido totalmente. Mi verrebbe solo da osservare, rispetto alle giuste preoccupazioni di Savignano, che io avevo tentato un pochino di uscire però dallo schema di questa politica come inglobante, perché avevo cercato di introdurre il concetto di oggettività, allora di legare la politica non tanto come la capacità di esaurire, il luogo in cui si è la capacità totalizzante di esaurire e ricomprendere, quanto come il luogo che ha a che fare con la oggettività, con il mondo del terzo, con il mondo dell'altro. Tema che mi sembra molto importante non solo per la politica ma anche in generale per l'etica e per la filosofia, perché la verità non si dà se non attraverso questo passaggio attraverso la dimensione dell'alterità, che però non è un passaggio dialettico nel senso hegeliano dell'inglobamento, è il terzo che resta sempre terzo, e allora la politica diventa più banco di prova che non totalità inglobante. In questo senso, e con questo chiudo, un altro dei temi su cui penso si debba riflettere è il concetto di totalità. Io ho certo spezzato una lancia in favore della differenza, e bisognerebbe precisarle meglio queste cose, eccetera. E ho specificato l'etica come luogo centrale della riflessione moderna, perché è il luogo che serve in sé le tracce della crisi. Pensavo anche alla definizione di Metz quando parla della religione come interruzione, che sarebbe anche un altro tema su cui riflettere. Tutti i luoghi dove si evidenzia un'interruzione mi sembrano dei luoghi preziosi. Però io non penso che la cultura, in quanto cultura, possa rinunciare alla totalità. Penso che deve scindere la totalità dalla dialettica. Questa è un'altra cosa. In questo senso anche immagine e concetto, come giocarli, è certo che bisogna giocarli bisogna giocarli l'uno contro l'altro più che altro, non tanto nell'ipotesi di integrarli. Il concetto deve demitizzare l'immagine e l'immagine rimitizzare il concetto, ma non come una cosa pacifica. È appunto una tensione, è una questione in cui continuamente dico e disdico, nel senso che dico l'altro di quello che ho detto, perché così delineo una totalità che però non si compone. Una immagine con cui concluderei per stare fedeli anche a questo schema, che mi è molto cara e che è del tempo in cui stavo a Berlino, è che là si era fatto un convegno sulla Prussia, un bilancio sulla Prussia storica, rappresentando, raffigurandolo con un medaglione spezzato, che era anche il simbolo naturalmente della Berlino di oggi. Ecco, la totalità è un medaglione spezzato, dove però l'interessante di quell'immagine è che la spezzatura del medaglione non è che il medaglione era intero e poi si è spezzato, sembra che, si dice, dall'origine fosse spezzato. Allora è questa spezzatura che passa dentro. Sì, concludo, ecco, riferendo la mia impressione come teologo e quindi rappresentando i teologi credenti, bravissima. Mi sembra, nonostante tutto, anche da queste ultime precisazioni, che ci sia una comunanza, almeno l'ho interpretata così, di interpretazione tra Savignano, Totaro e il professor Perone. Cioè, e prendo però a prestito più il modo in cui si è espresso Totaro, cioè si nega che è la totalità, ma si afferma con forza che c'è relazione verso la totalità. Bene, io applico adesso. La crisi delle fedi, delle religioni e delle chiese sta proprio qui. Chi, avendo rapporto fedi, religioni, con l'assoluto, crede di essere assoluto. Cioè, gli attributi di Dio, assolutezza, insindacabilità, totalità, vengono quasi assorbiti. Ecco perché sono diventati fonti di discriminazioni, di guerre. Chi maneggia un rapporto con l'assoluto, con il trascendente, con la totalità, si ritiene come tale. E per me è una svolta storica questa delle religioni per la pace. E anche nel Concilio Vaticano II quella formula, dall'est al subsistit in, ha questa valenza fortissima. Anche la Chiesa Cattolica da quel momento non può più dire io sono la totalità, ma sono in cammino verso la totalità, anch'io. Ecco dove ci tratta di operare una svolta storica, verso la totalità, verso l'infinito, ma siamo nel finito, ecco il luogo nostro da cui tendere, da cui anche accaparare e ricevere la parola di Dio. Questa è la conclusione, diremmo, anche politica per le chiese. Ma siccome siamo, abbiamo sentito l'insistenza sul finito, allora io dichiaro finito questo momento. Riflessione, cioè una riflessione teologica su tutto l'agire, tutto il mondo del politico, poi nel senso più globale una teologia tutta permeata di politicità, di attenzione alla dimensione comune, comunitaria della teologia stessa e della fede. Metz Moulton la chiama ermeneutica teologica. Poi c'è quella che forse più è stata tenuta finora presente alla Schmitt, della analogia tra teologia e politica, almeno come cespite di problematica, di stimolazione alla riflessione. Poi c'è l'ultima, verso la quale direi anche in qualche maniera, per ossequio, per obbedienza, ma anche penso per convinzione, le due relazioni di ieri hanno tenuto conto, cioè di una tale ermeneutica del politico che evidenzi dentro il politico, per maturarlo, per portarlo verso una ripresa di pienezza, il nocciolo teologico, come qui è scritto. E difatti mi sembrava di poter udire, come invito dalle due relazioni di ieri sera, una sollecitazione a riteologizzare un po' il politico, a combattere questa caduta nella neutralizzazione dei conflitti, di tutte le altre realtà che animano il politico. Ecco, ricaricarlo, perlomeno il territorio politico, soprattutto a livello etico, ecco la seconda relazione, ricaricarlo. E questo è un grosso problema. Non trasferire l'infinito nel finito, ma far sì che il finito come tale, pur non essendo l'infinito, scopra le aperture, le provocazioni alle aperture verso l'infinito. Ecco, mi sembrava che questa fosse la conclusione prevalente del discorso di ieri, cioè pur partendo dal quarto concetto di teologia politica, le analisi di rapporto analogico, anche se ieri sera è stato sollevato il problema, non l'abbiamo ancora risolto, affrontato almeno direttamente, cosa si intende per analogia qui tra teologia e politica, mi sembra che tutto sommato l'attenzione alla teologia di Metz e di Moltmann sia stata meno presente, più presente la quarta accezione, l'analogia, ma per arrivare alla fine direi a chiedere di fare attenzione a una ricarica direi del mondo politico, prevalentemente sul fronte dell'etico, per poter far esplodere, per così dire, la finitezza e tendere, anche senza voler identificarsi con la totalità e tutti gli altri attributi che possiamo attribuire al teologico per eccellenza. Bene, allora diremmo, nonostante una presenza prevalentemente della filosofia, mi sembra che il discorso abbia camminato nel senso di una evidenziazione dell'aspetto teologico. Questa mattina sentiremo altre due provocazioni, su che versante, ma forse prevalentemente ancora di filosofia, teologia, ma non saprei come dirlo, siamo ancora nel territorio un po' promiscuo, del resto i termini chiedono anche questa capacità di spaziare da un campo all'altro.